Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ultima puntata per il primo ciclo della nostra trasmissione che con l'estate si rinnova ma soprattutto non vi lascerà. Da sabato prossimo e fino all'11 settembre andrà in onda Giovani Talenti Estate, un format nuovo, fresco e molto raccontato, nel corso del quale vi proporremo non una ma ben due storie di giovani professionisti under 40 espatriati. Oggi intanto puntata d'eccezione per chiudere il nostro ciclo invernale con due giovani donne, una delle quali conosciuta all'opinione pubblica, che dibatteranno da angolature diverse il tema della fuga dei talenti dall'Italia. E sul blog di Giovani Talenti vi segnaliamo l'intervento del professor Alessandro Rosina, autore di Non è un paese per giovani, che fornisce stime shock sul fenomeno dell'espatrio dei laureati italiani. Ma sentiamo ora un'anticipazione della storia della settimana. Ero entrata in contatto con Richard Florida e anche in questo caso io avevo mandato un'email con alcune cose che avevo scritto, il mio curriculum eccetera, chiedendogli se potevo incontrarlo, parlare, vedere se magari potevamo lavorare insieme. E lui è stato carinissimo, io non pensavo neanche che rispondesse. Irene Tinalli, 36 anni, è tra le altre cose ricercatrice all'Università Carlos III di Madrid. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Nome. Alberto. Cognome. Orange. Every week, Italian journalist Sergio Nava interviews young Italian graduates living abroad for his radio show on Radio 24. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Junge Talente heißt die Sendung, die samstags um 15 Uhr auf Radio 24 zu hören ist. E per una volta apriamo il notiziario parlando di noi. Nelle ultime settimane ben due radio internazionali tedesche si sono occupate della nostra trasmissione, prendendone spunto per trattare il fenomeno dell'esodo dei migliori giovani professionisti italiani. Young Italian Graduates Find Better Jobs Salaries Abroad, il titolo del reportage di Deutsche Welle, Italian, Nein Danke, quello di Deutschlandfunk. Stiamo sprecando una generazione. Se il mercato del lavoro riprenderà quota, i giovani di oggi si sentiranno dire che sono troppo vecchi, si troveranno in competizione con i più giovani senza neanche aver accumulato un curriculum, una situazione drammatica. Così la sociologa Chiara Saraceno sui dati diffusi dall'Istat che fissano il tasso di disoccupazione giovanile al 29,2%. E anche le indagini confermano le difficoltà di inserimento dei giovani laureati nel mercato del lavoro, soprattutto a livello salariale. Secondo l'indagine Stella, il 26,3% dei laureati specialistici a 12 mesi dal titolo percepisce tra i 1.000 e i 1.250 euro al mese, meno di un tornitore. Risultano migliori di poco le retribuzioni dei laureati triennali. L'Italia non è un paese di giovani né per giovani, questo è il tema al centro di un convegno promosso dalla CNA dell'Emilia-Romagna. Bassa natalità, bassa mobilità sociale, difficoltà di inserimento per i neolaureati nel contesto lavorativo, calo persino degli imprenditori under 35, questi i preoccupanti dati forniti da CNA, che sottolinea i giovani ricercatori che vanno all'estero sono oltre 34.000. La Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna partecipa al progetto europeo Directions con l'obiettivo di favorire la mobilità internazionale di giovani imprenditori italiani e spagnoli. Il progetto, che fa parte del programma europeo Erasmus per giovani imprenditori, prevede il finanziamento di 17 esperienze formative per giovani imprenditori italiani in Spagna. Info su italcamera-es.com. E per festeggiare i suoi 100 anni, Confindustria offre ai giovani laureati ad alto potenziale percorsi formativi. L'iniziativa si chiama 100 giovani per 100 anni e prevede 12 mesi di stage presso le diverse sedi dell'organizzazione. Ai partecipanti verrà riconosciuto un rimborso spese mensile di 1.000 euro lordi. Bando aperto ai giovani in possesso di laurea o dottorato. Info su confindustria.it. Ed è in rete da una settimana il sito Winning Italy, promosso dal Ministero degli Esteri con l'obiettivo di dar vita a una bacheca dinamica che possa raccogliere i numeri dell'eccellenza italiana. Info su winningitaly.it. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo l'opportunità per i giovani neolaureati nati dopo il 1 gennaio 1984, che possono candidarsi fino al 30 di luglio per i tirocini retribuiti promossi dall'ONU nei paesi in via di sviluppo. Lavoreranno su progetti relativi a sviluppo delle microimprese, lotta alla povertà, ambiente, pari opportunità. Il programma si chiama UNV Internship. Info su undesa.it. Un manager delle risorse umane allo European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg in Germania ha richiesto il master, scadenza per il CV 18 luglio, info su embl.de. E infine una research assistant alla facoltà di medicina dell'Università di Glasgow in Scozia svolgerà ricerche sul cancro, scadenza per il CV 30 luglio, info su gla.ac.uk/jobs. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Madrid, capitale della Spagna. Oggi parliamo di un nome noto all'opinione pubblica italiana, andiamo a scoprire qualcosa in più su di lei. Nome: Irene. Cognome: Tinagli. Età: 36. Città di origine: Empoli. Studi: laurea in economia, Master of Science, PhD in Public Policy. Anno in cui hai lasciato l'Italia: inizio 2001. Per andare dove? Pittsburgh. Perché? Per andare alla Carnegie Mellon University. Quale lavoro svolgi attualmente? Ricercatrice. Dove? Università Carlos III di Madrid. Tornerai? Ma non sai che non ci ho mai pensato, non è un mio obiettivo. Corren fuerte viento de tormenta, como no vivo del aire, me estoy dando rienda suelta, no se lo cuentes a nadie. Formas que invento, nadie se cree mis cuentos, y no me cuadran las cuentas, me buscas y no te encuentro, y si no te busco me encuentras. E stop a Vientos de Tormenta per introdurre la storia di Irene Tinagli. Venti di tempesta potremmo tradurre, noi però preferiamo chiamarli venti di cambiamento, quel cambiamento generazionale di cui l'Italia sembra avere assolutamente e più che mai bisogno, vero Irene? Direi proprio di sì. Prima di iniziare con l'intervista vorrei solo precisare che doveva essere oggi in onda con noi anche il ministro della gioventù Giorgia Meloni, ma impegni legati all'iter legislativo del DDL sulle comunità giovanili le hanno impedito in extremis di partecipare. Contiamo comunque di averla ospite in una delle puntate autunnali, ovviamente. Allora Irene, partiamo però dai tuoi studi universitari, iniziati con una laurea all'Università Bocconi. Cosa ti ha spinto a lasciare l'Italia? Io, dopo che mi sono laureata, ho iniziato a lavorare lì in università come assistente, ricercatrice, come succede a tanti, e dopo un paio d'anni sinceramente non ero molto contenta di come stavano andando le cose, non mi sentivo di riuscire a crescere, a formarmi, insomma, come avrei voluto, e quindi ho iniziato a fare un po' di domande all'estero per specializzazioni, master, poi dottorati, queste cose qua. E tu approdi alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh per un Master of Science prima e un PhD dopo, che porta anche alla pubblicazione del tuo primo libro. Prima però, come arrivi alla Carnegie Mellon? Per merito, per selezione? Sì, ho fatto una domanda, quindi anche quello per me era stato un processo nuovo. Avevo fatto anche altre domande, ero stata ammessa anche in altre ottime scuole, però Carnegie Mellon per me è stata importante in parte perché è un'università che ha ospitato tantissimi premi Nobel dell'economia, Herbert Simon, anche Modigliani ha studiato lì, Williamson eccetera, ma poi perché appunto ero entrata in contatto con Richard Florida, e anche in questo caso io avevo mandato un'email con alcune cose che avevo scritto, il mio curriculum eccetera, chiedendogli se potevo incontrarlo, parlare, vedere se magari potevamo lavorare insieme, e lui è stato carinissimo. Io non pensavo neanche che rispondesse, perché in Italia questo non avviene, forse, no? Vieni, parliamo. E quindi ho iniziato in realtà a collaborare con lui prima ancora di iniziare il master, che poi ho deciso di fare alla Carnegie Mellon anche perché c'era lui, insomma. Forse perché in Italia non siamo abituati a questo modo di relazionarsi così informale. Sì, infatti io ero molto scoraggiata anche da questo aspetto, no? Quindi di non riuscire a comunicare, a lavorare anche con uno spirito più collaborativo e paritario con professori che avessero anche più esperienza di me, il sentirsi sempre un po' abbandonati a se stessi, questo è un problema molto comune di tanti giovani in Italia. Tu poi pubblicherai il libro Talento da svendere, definito un libro che smonta senza alcuna pietà il mito della creatività italiana, un libro fondamentale per capire il ruolo e il potenziale di una nuova generazione di talenti e i limiti di un sistema politico ed economico che non ha saputo valorizzarli. Mi sembra di trovare in questa definizione il ritratto, forse anche un po' impietoso, ma lucido, dell'Italia, no? È stato anche un po' il bisogno che avevo di raccontare alcune storie che avevo sentito, non tanto la mia personale, però tante storie che sentivo raccontare da giovani che non erano espatriati, che stavano in Italia, per cui è più un libro su chi vive in Italia, sulla situazione italiana, che non su chi se n'è andato, quindi cercare di capire come mai l'Italia, che si è sempre vantata e continua spesso a considerarsi questo paese pieno di talento e creatività, in realtà proprio ora che siamo nell'era dell'era dell'innovazione, del talento, fa così tanta fatica a far emergere i propri talenti. Poi tu torni in Europa, approdi all'Università Carlos III di Madrid. Di cosa ti occupi ora esattamente? Io mi occupo di economia dell'innovazione, in particolare applicata a sistemi sociali, a comunità, città, regioni, quindi cerco di capire i ponti e i collegamenti tra variabili sociali, variabili economiche per lo sviluppo economico di una società. Ho fatto tutto con le mie forze e so che ho ancora molta strada da fare, ma non mi spaventa, è giusto così. Scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Quando la classe dirigente italiana potrà dire in blocco questa frase, saremo probabilmente un paese diverso e forse anche migliore. Ma veniamo al tuo impegno anche politico in Italia, prima col PD, poi passi a Italia Futura. Quale esigenza ti ha portato a ricostruire i ponti col nostro paese? Io per alcuni anni, quando ero all'estero, ero molto impegnata nei miei studi, quindi non avevo molti collegamenti con l'Italia. Poi però ho iniziato attraverso delle ricerche sul il potenziale creativo e innovativo delle città italiane, delle regioni italiane. Allora sono stata contattata da alcuni giornali, poi da Einaudi, che era interessata a queste ricerche, mi ha stimolato a pensare a un progetto editoriale. Quindi ho iniziato un po' anche da un interesse mio e ad alcune opportunità che ho avuto di raccontare, di esprimere le mie idee, cioè cosa si può fare, cosa può fare la politica in termini davvero di interventi, di misure, di politiche economiche per cercare di migliorare alcune cose del nostro paese. E tra i tuoi ultimi lavori c'è anche un rapporto sulla mobilità sociale, appunto, proprio per Italia Futura. Irene, tutti i maggiori indicatori suggeriscono che almeno 30.000 under 40 lasciano l'Italia ogni anno, probabilmente sono molti di più, forse il doppio. Un flusso in uscita triplicatosi nell'ultimo decennio, secondo dati Istat e Svimez. L'attrattività italiana verso i cervelli e i talenti stranieri giovani appare invece di gran lunga inferiore. Secondo te, ha un futuro un paese così? Possiamo parlare di emergenza nazionale? Assolutamente sì, cioè voglio dire, siamo in un sistema economico globale che si basa su due cose fondamentalmente. La prima, la conoscenza, il sapere, l'innovazione, la produzione di idee nuove, e la seconda è i flussi di idee, di cervelli e le interazioni su scala globale. Quindi se noi non investiamo, non abbiamo risorse né sul primo di questi fronti né sul secondo, perché comunque ci chiudiamo, io credo che qui veramente siamo di fronte a un'emergenza. E uno dei problemi anche forse più grossi di questo paese è la cosiddetta gerontocrazia. Abbiamo una classe dirigente vecchia in tutti i settori. Prendiamo quello politico, ad esempio. Quando avremo un premier quarantenne e quando ci saranno dei leaders che, esaurito un lasso di tempo ragionevole, cederanno il passo ai giovani? Ah, bella domanda. Questa è la domanda. Quando. Spero presto, perché guardi, veramente è una situazione adesso davvero troppo cristallizzata, e questo non fa bene a nessuno, non fa bene alla politica, non fa bene alla società, non fa bene all'economia. Il sistema politico ormai è lo stesso, quadro che vediamo da 20 anni, si ruotano, è una rotazione delle persone che però sono sempre le stesse. Adesso siamo arrivati veramente a una situazione che non può essere, naturale, fisiologica, cioè è patologica. Siamo arrivati a questo punto. Una persona a 40 anni viene ancora considerata una persona che ancora deve fare gavetta, deve essere sottoposta, non può esprimere le proprie idee, non può avere autonomia decisionale. È decisamente incredibile. Io saluto Giorgia Petrini, che tra poco conosceremo meglio. Per ora anticipiamo solo che tu sei una imprenditrice scrittrice. Giorgia, è vero che anche in Corea si sono accorti che siamo un paese vecchio? Sì, a me è successo questo episodio di recente, proprio negli ultimi giorni, la scorsa settimana. Mi hanno chiamato dall'ambasciata coreana dicendomi che ero stata selezionata nell'ambito di un programma che seleziona un certo numero di giovani leader in Europa per metterli in contatto con i leader di prossima generazione coreani, no? Quindi loro sono molto aperti in questo senso. Io ero un po' allibita, chiaramente gli ho detto: scusate, ma di tante persone che avremo in Italia, anche sicuramente migliori di me, perché siete venuti a cercare me, no? E loro mi hanno risposto che in realtà queste tante persone in Italia non le vedono, cioè una leadership giovane sotto i 40 anni, come diceva Irene, è molto molto stretta, per cui molto, quasi inesistente. Quelli che ci sono tutti figli di, no? Sono ereditano situazioni di posizioni di leadership che sono nella maggior parte dei casi non di prima generazione, per cui sono figli di imprenditori, sono figli di politici, sono figli di qualcuno che in qualche modo questo l'ascensore sociale non l'ha nemmeno qui, tanto qui nessuno. Ecco, scusa Giorgia, ma vorrei proprio fare una domanda flash, purtroppo il tempo è poco, e a Irene di mobilità sociale si è occupata. È grave il problema di mobilità sociale in Italia, maledettamente grave, vero Irene? Sì. grave perché sta diventando sempre più difficile per i ragazzi che crescono in ambienti meno ricchi, meno benestanti, meno inseriti, più difficile per questi ragazzi avere l'accesso alle opportunità di crescita, quindi istruzione di qualità, opportunità di lavoro di qualità, quindi diciamo l'opportunità di misurarsi. Irene, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Quando vedo l'Italia dall'estero mi sembra, sai, uno di quei cricetini che girano sulla ruota, fanno una fatica terribile, sempre che si muovono ma non vanno mai da nessuna parte, e mi dispiace tantissimo. Le due o tre cose di base, diciamo, una grande riforma del sistema dell'università e della ricerca, se ne parla da decenni, non si fa mai. Una riforma anche della politica, abbiamo questo sistema della politica, i cittadini non possono neppure scegliere chi votare, lo scelgono i partiti, è tutto terribilmente autoreferenziale. Bisogna sbloccare qualche cosa anche lì e dare la sensazione alle persone che si può fare, che si può cambiare. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Irene Tinagli, 36enne ricercatrice all'Università Carlos III di Madrid. Irene è già stata ricercatrice negli Stati Uniti, nonché autrice del libro Talento da svendere. Ci raggiunge ora in linea Giorgia Petrini, amministratore delegato di GPA. Da un anno è impegnata con un progetto personale, Side Leaders, patrocinato dal Ministero della Gioventù e dal Ministero dell'Innovazione, con l'obiettivo di divulgare una nuova concezione del fare impresa in Italia tra le giovani generazioni, puntando sui nuovi mercati e sulle nuove tecnologie. Giorgia ha vinto il premio delle giovani eccellenze per l'imprenditoria e ha scritto L'Italia che innova, un libro che mette i giovani al centro della storia economica del nostro paese e intende rilanciare il nostro futuro con una nuova economia attraverso lo sviluppo di settori fortemente competitivi e globali come l'high tech. Giorgia, del problema della diffusa gerontocrazia italiana abbiamo già parlato poco fa. Cosa ci puoi dire invece sulle altre riflessioni che abbiamo svolto, come appunto gli incarichi di responsabilità ai giovani e tutto il resto, anche il problema, se vogliamo, della selezione delle prospettive di carriera? L'Italia è un paese che è cresciuto un po' in questo clima così di tradizione conservativa, per cui i governi sono sempre quelli, le aziende sono sempre quelle, le classi dirigenti sono sempre quelle, ma questo in tutti i settori senza fare una questione di parte, per cui viviamo in un contesto di paese dove società e comunità si interfacciano per forza con una futuribilità di sistema che è un po' vaga, nel senso che i giovani di oggi hanno meno la visione di quello che possono cercare di andare a fare, riescono a contare di meno sicuramente sulle proprie competenze, aspirazioni personali, e hanno meno possibilità di mettercela tutta e di riuscire a farla. Giorgia, tu te ne occupi quotidianamente di questa parola magica, innovazione. Io dico sempre che siamo in Italia campioni mondiali nell'utilizzo del termine merito o meritocrazia. Ultimamente va molto di moda anche innovazione, ma personalmente non vedo né una seria politica industriale orientata in questo senso, né una virata decisa del sistema paese nel suo complesso, nel senso dell'innovazione, nell'investimento, nell'innovazione, anche a scapito di settori ormai destinati a soccombere nel medio-lungo periodo. Cosa si può fare? Bisognerebbe ripartire da zero, secondo me. Cioè, è vero quello che dici, perché comunque l'Italia è anche un paese abituato a speculare molto sull'iniziativa del momento, per cui la bandiera attuale è talento, giovani, fuga dei cervelli, innovazione, tutti vanno lì parlandone più o meno in parlandone basta livelli, però di fatto si avvera molto poco. In Italia sta accadendo che fondamentalmente l'innovazione è un concetto che stiamo, al di là dell'uso che ne facciamo in termini mediatici e promozionali, la stiamo applicando solamente nei contesti in cui andiamo a cercare a livello industriale di rigenerare delle cose, per cui l'innovazione è mediamente intesa come la piccola o media azienda che deve fare innovazione di processo perché deve upgrade i suoi livelli di profit a un mondo, a un contesto industriale che è cambiato, quando invece l'aspetto vero da aggredire del fattore innovazione dovrebbe essere proprio l'innovazione più recente, quindi quella futuribile e quella che per forza di cose i giovani sono quelli più vicini a saperla fare, più bravi a saperla fare, no? Cioè rompere gli schemi col passato in alcuni casi. Tu nel tuo piccolo cosa fai ogni giorno? Ma io, cioè, ho un'azienda di software, per cui per me l'innovazione è pane quotidiano, insomma io cerco tutti i giorni di innovare attraverso la tecnologia, suggerendo ai miei clienti, che poi sono clienti grandi in realtà, strategie tecnologiche che possano attraverso l'uso della tecnologia e quindi del software innovare anche i sistemi e i processi aziendali. Irene, c'è una domanda che vorresti porre a Giorgia Petrini? Che tipi di ostacoli o di aiuti ha incontrato per arrivare, devo dire, a creare comunque un'azienda di successo, ad affermarsi, ad avere dei grandi clienti? Penso sia quella la domanda che poi tutti i giovani le farebbero. La mia storia in realtà è la storia di un'azienda cresciuta in un soggiorno di casa, in un salotto di casa, fino al primo miliardo di lire, di vecchie lire di fatturato. Quindi diciamo che lo startup di questa azienda è iniziata comunemente con una metodologia molto ispirata al garage, insomma. Quindi il resto, devo dire che io non ho usufruito né di finanziamenti né di aiuti particolari né di logiche particolari, per cui insomma è stata fatta realmente sulla base della forza di volontà. Poi da lì a dire quanti di questi casi in Italia riescono è una mission impossible, nel senso che mentre l'America ha anche una predisposizione generazionale di guardare a modelli, ispirarsi a modelli giovani, di leader giovani che sono riusciti su questo tipo di storia a costruire dei successi, e quindi c'è anche una predisposizione particolare, i ragazzi sono molto più motivati, ci riescono e molto spesso lo fanno. Noi qui in Italia questa valenza di leadership giovane non ce l'abbiamo, e quindi chiunque pensi di utilizzare il veicolo della forza di volontà o punta tutto su se stesso, oppure è difficilissimo che riesca ad ottenere dei risultati di successo, quindi sono molto limitati. In due parole, perché il tempo è veramente poco, ma una domanda comune per entrambe, anche per chiudere un po' il cerchio, se vogliamo, di questa trasmissione: c'è speranza per i giovani talenti in Italia? Ma in due parole, Irene. Io non vedo perché no. Chiaramente è necessario fare alcuni piccoli cambiamenti strutturali, ma assolutamente penso che sia possibile. Giorgia? Sì, io sono d'accordo con Irene anch'io, però continuo a sostenere che per contro l'Italia non deve tenerli qui se non è in grado di dargli delle alternative, cioè o li teniamo qua con un'alternativa, oppure è bene che questi ragazzi vadano a cercare il proprio futuro, la propria vita all'estero. Sava Sandia, potremmo dire. Grazie a Giorgia Petrini. Irene Tinagli, ultima domanda, domanda di rito per chiudere: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, anche a un espatrio? Assolutamente di andare, di non avere paura, di avere coraggio, però anche di essere pronti a tanti sacrifici. Non esistono facili allori da nessuna parte, fuori si fa fatica anche più che qua, però si cresce anche un po' di più e non ci si pente mai. Io non ho mai sentito nessuno pentirsi di essere partito, casomai di essere tornato. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi vi parliamo di una pubblicazione di prossima uscita, Chi resta, chi parte, chi arriva, fattori di attrattività per i giovani in Veneto, edizioni Cleup, un testo a cura di Ludovico Ferro, del quale ci ha colpito un dettaglio importante: la domanda dominante che emerge dalle interviste ai giovani laureandi veneti, domanda che sta sempre più diventando: resto o lascio l'Italia? Sentiamo Ludovico Ferro. Noi ci siamo accorti che mentre ponevamo la domanda se c'era l'intenzione eventualmente o c'era l'opzione di andarsene dal Veneto, siamo resi conto e ci è stato risposto che questa domanda se la fanno e come, se la fanno sempre di più. La risposta generale è quella che per ora almeno non c'è un'intenzione, una tendenza chiara nel volersene andare, però in prospettiva futura in qualche modo ci stanno pensando. Noi abbiamo sentito, diciamo, i giovani che ancora non hanno deciso. È qualcosa di interessante quello che hai appena detto, anche perché comunque il Veneto è una delle regioni più ricche d'Italia. Fa specie vedere che giovani qualificati, giovani che stanno finendo l'università, fanno fatica a trovare quegli stimoli per restare. Cos'è che li spinge ad andare via? Diciamo che abbiamo anche capito che chi restava qui e chi resta qui e chi ha ancora intenzione di rimanere qui è abbastanza disilluso sul fatto di poter trovare un'occupazione coerente con i propri studi e con le proprie aspirazioni. Si rimaneva o si rimane accettando una situazione comunque che appaga magari dal punto di vista economico, il lavoro si trova, ma dal punto di vista della professione ideale e di un certo tipo di livello di professione, questo effettivamente non c'è. Il Veneto era e si conferma a tendenza manifatturiera, artigianale molto, molto forte, e quindi questo è un elemento che potrebbe in futuro influire, anche perché se dovesse venire a mancare questo fattore che trattiene, le cose potrebbero veramente cominciare a cambiare, le tendenze. La domanda è: questi giovani sono troppo pretenziosi, oppure forse è la regione che non riesce a offrire opportunità ai laureati? problema è forse non solo veneto, ma italiano, cioè manca la valorizzazione, mancano gli spazi, facciamo tutto bene fino alla formazione universitaria, dopodiché rimane un po' il vuoto. Il giovane che entra nel mondo del lavoro si trova un po' spiazzato, si trova in una situazione in cui effettivamente o cambia completamente prospettiva oppure si ritrova a viaggiare nelle acque difficili e torbide di precariato, di lunghe gavette, eccetera, eccetera. Poi c'è un altro aspetto che invece è quello che è emerso e ci ha anche molto stupito, che è quello relativo all'immagine del Veneto come di un Veneto chiuso e poco aperto nei confronti della diversità degli immigrati. Questo è un fattore che rischia addirittura di, diciamo, non trattenere i veneti stessi, che sentono e vivono un po' un ambiente culturale almeno formalmente poco aperto, poco tollerante, e questo era invece uno dei fattori importanti, fondamentali nella scelta del posto ideale dove stabilirsi, un posto che deve essere un ambiente tollerante e ricco di servizi. La ricerca di Ludovico Ferro, realizzata con la Fondazione Corazzin di Venezia, uscirà a fine mese. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: secondo l'associazione Nova, che raggruppa gli studenti di MBA negli Stati Uniti, solo uno studente di Master in Business Administration su tre torna in Italia. Non è questa una clamorosa perdita per la crescita del sistema paese? Queste le vostre risposte. Sergio, in Italia MBA uguale semplice master, non c'è la cultura lavorativa dell'MBA e lo si considera come semplice master nella stragrande maggioranza dei casi. Christian, è una domanda alla quale preferirei rispondere tra qualche mese, quando finirò il mio MBA. Spero di non trovarmi per l'ennesima volta nella situazione in cui, mettendo sulla bilancia i pro e i contro di tornare in Italia, finisco col ripartire per nuove destinazioni. Penso che l'industria italiana abbia poca fiducia nella selezione scolastica, anche se effettuata dalle migliori università del mondo. I salari sono poi così sproporzionati tra Italia e resto del mondo. Un MBA nelle migliori università costa come minimo 50-70 mila euro e un anno via dal lavoro. Se anche l'MBA ti portasse un aumento di 1000 euro al mese, quanto tempo ci vorrebbe a recuperare l'investimento? Aldo, non ho un MBA, ma immagino che un titolo di studio simile sia in pratica un biglietto di quasi sola andata verso l'estero. Venendo a contatto con il mondo dello studio all'estero e con l'internazionalità degli studenti di un corso MBA, gli orizzonti si allargano a dismisura e le opportunità lavorative di conseguenza. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione che resterà aperta ai vostri commenti fino alla fine del mese. Quali sono le vostre proposte concrete per rendere l'Italia un paese per giovani? Questo sia per evitare il crescente espatrio di professionisti under 40 in tutti i settori, sia per invogliare a tornare chi si è già trasferito all'estero. Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E non dimenticate di visitare il blog aperto all'indirizzo radio24ilsole24ore.com/blog/nava. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto allora i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24, con la nuova edizione estiva di Giovani Talenti, e dal 18 settembre torniamo col format tradizionale. Un saluto e un augurio di buona estate da Sergio Nava.